Il panino è l'espressione del pasto più semplice ed è collegato anche al cambiamento degli stili di vita, quella che è la pausa pranzo sempre più breve, quelli che sono anche i ritmi e gli impegni della donna nel mondo lavoro che hanno fatto sì che il pranzo abbia molto modificato quello che era il suo modo di essere concepito. Con questa premessa il panino oggi rappresenta dei numeri importanti, rappresenta l'8% del fatturato del canale bar. Il canale bar sviluppa 13 mila miliardi di fatturato, l'8% è 1 miliardo di volume d'affari, espresso anche in circa 500 milioni di panini all'anno consumati. Per concretizzare ancora un dato numerico, significa che ogni giorno nei bar italiani si somministrano 1.700.000 panini. Il panino è rimasto fedele nei secoli, nel senso il panino di qualità riesce a uscire indenne dall'attacco magari del fast food, delle grandi catene, che è un tipo di alimento che noi importiamo ma che forse non ha nulla a che vedere con il nostro sano panino. Sì, esatto. Certamente il panino è stato molto aggredito da quelle che erano le tendenze internazionali. Pensi alle catene tipo McDonald's che hanno fatto un business su questo aspetto, ma quello che è il panino italiano ha una sua tipicità in termini di ingredienti, in termini anche di valori nutrizionali, in termini anche di qualità del contenuto, pur con rispetto evidentemente dei riferimenti che prima ho citato. Voi avete organizzato Paninando, questa competizione tra bambini, tra ragazzini, per creare il panino DOC. Il panino DOC non soltanto come gusto ma anche come valori. Il panino DOC qual è? Il panino DOC non esiste, ha solo un aggettivo, panino buono. L'iniziativa è stata fatta con due finalità: per educare i bambini. Educare vuol dire avere cura di una persona. E visto che oggi molto spesso quello che è l'educazione e la sensibilità verso il cibo e verso il gusto si acquisisce da bambine, l'iniziativa è quella di coinvolgere in un gioco i panini, a prepararsi il loro panino, da sottovalutare poi da una giuria che ne valuterà quella che è la composizione in termini di aspetto, in termini di ingredienti, in termini di originalità, in termini di tipicità, cioè del prodotto italiano, e anche in termini anche di presentazione.